domani. Pelo duro, ma tu poche ne sai. Tu non vivi, non hai vissuto mai. Se non credi, a cosa crederai? Se non ami, tu non hai amato mai. Se non provi, per me che proverai? L'universo è il sogno di una stella. Camminiamo e non ci fa paura. Noi guidiamo e lei ci porta via. Non è vero, non ci lasceremo mai. Oh mai, oh mai. Un sentiero e dove porta mai? Dopo lo saprai. Sì, c'è buio, ma tutto il resto poi sarà chiaro, solo se guarderai. Tutto il resto lo saprà solo Dio. Non da solo, non senza amor mio. Tu il veleno insieme a me verrai, e il deserto come attraverserai. Tutto il fuoco che brucia una candela, non è il fuoco che può la tua paura. Camminiamo dove vorrà la stella, io ti giuro che non ci lascio. Il sogno di una stella, camminiamo e non ci fa paura tutto.